Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Andrea Spadaccini, mezzo secolo di Vasta Arredo, la scuola su misura per bambini. Di Anna Marino. Sono due ricordi più importanti che ho sulla scuola. Il primo, che causa la mia, diciamo, la mia altezza elevata, non sono mai riuscito in tutto l'arco scolastico a trovare una sedia o un banco che rispecchiavano la mia altezza. Quindi ho vissuto tutti gli anni della scuola con il banco che si alzava sulle mie gambe. E questo è il primo ricordo che ho. E poi, devo essere sincero, un altro ricordo è stato un pochettino traumatico, nel senso che quando dalla scuola materna siamo passati alle scuole elementari, il cambiamento è stato molto molto forte, perché nella scuola materna c'era tutta un'attenzione particolare, lo spazio, la relazione che avevi con l'attività didattica. Invece, come sono entrato a scuola, mi ricordo il primo giorno di scuola questa cosa di stare tutti fermi, tutti seduti, con la maestra che stava seduta su una cattedra lontana che spiegava, mi ha un po' traumatizzato. Non ho un bellissimo ricordo del primo giorno. Questi i ricordi del primo giorno e dei tanti passati fra i banchi di scuola da bambino, impressi nella memoria di Andrea Spadaccini, terza generazione di un'impresa di famiglia, la Vasta Arredo di Vasto, che da 60 anni cura l'arredamento scolastico da 0 a 18 anni. Fondata da Remo Salvatorelli, oggi ha un fatturato che si aggira sugli 11 milioni di euro e un numero di dipendenti e collaboratori che arriva a 75 unità. Vasta Arredo è tra i capofila del gruppo di aziende attive nei settori arredo scolastico, giochi per l'infanzia, arredo urbano e in generale sistemi di arredo per comunità, asili nido e scuole per l'infanzia. Tra i clienti maggiori, la Vasta Arredo conta il comune di Bologna, la provincia di Roma, quella di Napoli e numerosi altri, che ormai da mezzo secolo si rivolgono all'azienda, oggi gestita da Nunzia Salvatorelli e suo fratello Emidio. Sposata con Giancarlo Spadaccini, i suoi due figli sono Andrea e Marianna, il primo impegnato nel ramo aziendale in Emilia-Romagna e la seconda studentessa universitaria. Questo il concetto di arredamento pedagogico che va al di là del prodotto. Iniziare a pensare a una scuola aperta, a una scuola in cui l'insegnamento non sia più un insegnamento ex cattedra, ma che sia un insegnamento cooperativo, collettivo, in cui l'insegnante svolge un ruolo di coadiuvare l'insegnamento, ma sono i ragazzi stessi che tra di loro crescono e si sviluppano. Infatti si disegna la scuola moderna, la scuola attuale si disegna non più con dei banchi singoli, ma con dei banchi che permettono diciamo un lavoro di gruppo quasi sempre, quindi tu impari col tuo compagno. Negli anni 50, Vasta Arredo, grazie alla visione imprenditoriale del fondatore, Remo Salvatorelli, è stata una delle prime aziende italiane a realizzare la rivoluzione del mobile per la scuola. Da attività artigianale si è trasformata in realtà industriale grazie a un'opportunità. L'azienda è stata fondata da una brillante idea di mio nonno, oramai 60 anni fa. Siamo entrati nel settore piano piano, nel senso che all'inizio era quasi una bottega artigianale che era specializzata a fare un po' di tutto, anche arredamento delle chiese. Da delle chiese siamo arrivati agli oratori. Poi è successo che ci fu un fallimento di una ditta molto importante nell'arredo scolastico, la ditta Palini, una ditta del nord Italia. Mio nonno acquistò parte dei macchinari di questa ditta. Il salto di qualità l'abbiamo fatto, diciamo, subito dopo con la seconda generazione, che è stata quella che ha, diciamo, oltre che consolidato il mercato, anche acquisito nuovi marchi. E poi abbiamo sviluppato un bellissimo progetto infanzia col Dipartimento Indaco del Politecnico di Milano, quindi oggi stiamo spingendo molto sotto tutti e due i punti di vista, sui due piani, sia l'arredo obbligo che l'infanzia. Nel 2015 Vasta Arredo ha partecipato all'iniziativa di Cittadinanza Attiva con un progetto che prevede due aule itineranti da posizionare in 9 piazze italiane. Le due classi erano siglate come OK, di fronte a quella dove erano posizionati arredi all'avanguardia, e come KO per l'aula arredata con prodotti classici. Tutto il progetto è intitolato alla memoria di Vito Scafidi, il ragazzo morto mentre faceva lezione a causa di un tubo metallico precipitato dal soffitto. Il progetto nasce proprio perché è inconcepibile che in un paese come l'Italia si possa morire mentre si va a scuola per un crollo di una controsoffittatura. Porta a pensare quanto sia negativa la situazione degli ambienti scolastici in Italia. E da qui noi siamo partiti, quindi grazie anche alle nuove direttive del MIUR in ambito di edilizia scolastica, siamo partiti con questo progetto in molte piazze italiane, in cui abbiamo fatto vedere la scuola passata, che è la scuola che ho fatto io, che è la scuola che abbiamo fatto noi, e la scuola futura, ma che in realtà non è un futuro lontano, è un futuro diciamo imminente, perché ci sono queste nuove direttive del MIUR, e quindi abbiamo realizzato questi spazi con dell'arredo aggregabile, con dell'arredo cooperativo, in cui l'insegnante, come dicevo prima, non è più su una cattedra, ma vive i ragazzi, è in mezzo ai ragazzi, quindi non viene vista come una figura lontana, ma come una figura diciamo vicina e presente. Per garantire la selezione dei materiali e dei componenti migliori e gli standard di produzione ed assemblaggio, al termine del ciclo produttivo i singoli componenti vengono sottoposti a severissimi test di durata, sicurezza e prestazione, secondo i più rigorosi standard nazionali e internazionali, quali le normative UNI, EN, ISO. Non si deve dimenticare il senso degli arredi scolastici. E formare delle future generazioni che abbiano, diciamo, al loro interno dei concetti più alti. Quindi la scuola non è un luogo dove ci si va per essere parcheggiati, ma è un luogo dove si va per crescere. Fra i primi in Italia a lanciare l'arredo regolabile per venire incontro al bisogno di postura corretta, Vastarredo sta studiando progetti pedagogici innovativi per la scuola dell'obbligo, con un arredo aggregabile che permetta un insegnamento non più frontale, ma cooperativo, in cui l'insegnante non diriga più la lezione, ma semplicemente la coadiuvi, lasciando ai ragazzi libertà di azione e di gestione. Questo nasce da una sperimentazione attraverso dei laboratori che hanno avuto i bambini come protagonisti. Per il progetto infanzia abbiamo sviluppato dei veri e propri laboratori con dei pedagogisti e questi architetti che sono stati a giocare proprio effettivamente con dei bambini per parecchio tempo, per capire quali erano le loro voglie, le loro necessità. Infatti il catalogo ha varie indicazioni scritte proprio dai bambini, ad esempio su un morbido. La cosa che mi è rimasta più in mente è che un morbido dice, un bambino dice: se ci pensiamo bene tutto quanto ha una forma. Quindi la forma non gliela devo dare io, il bambino che ci deve arrivare da solo. Per quanto riguarda l'arredo obbligo, seguiamo, diciamo, delle direttive pedagogiche che vengono fuori da degli studi, quindi nulla è lasciato a caso, nei limiti di quello che è comunque la situazione economica italiana, perché se io progetto un banco che costa 8 volte di più di un banco normale, malgrado possa essere il banco più bello sulla faccia della terra, non lo riesco a vendere, quindi... E per vivere bene infanzia ed età scolare sono importanti non solo l'arredo, ma anche le qualità umane. Condividere un banco può insegnare molto. Insegna l'adattabilità, che è la caratteristica più importante che abbiamo noi italiani, quindi lo iniziamo a insegnare già nelle scuole, e forse questo è anche un vantaggio. E ora, dopo la storia di Vastarredo che pensa alle scuole da 0 a 18 anni, la storia di Vuetel che pensa a sfruttare le possibilità di internet per giovani italiani ma anche per giovani africani. Vuetel, azienda romana specializzata in servizi di telecomunicazione internazionali in Africa, è nata dall'intuizione di Giovanni Ottati. Obiettivo: aumentare la connettività dei paesi africani e del Mediterraneo con il resto del mondo, sviluppando il settore delle telecomunicazioni ed espandendosi in un mercato complicato ma con enormi potenzialità, come spiega appunto Giovanni Ottati. L'idea nasce dal fatto che la nostra è un'azienda di servizi di telecomunicazioni internazionali. Il mercato dei servizi di telecomunicazioni internazionali è un mercato estremamente competitivo, fatto di operatori di grandi dimensioni. Il continente dell'Africa subsahariana e del Mediterraneo è sempre stato, anche per i grandi operatori, un mercato estremamente difficile. Quindi l'unico spazio possibile e immaginabile per una nuova impresa era di entrare su questo mercato. Chiaramente l'ho fatto perché venivo da un'esperienza più che 25ennale maturata all'estero con Telecom Italia, dove mi sono occupato prevalentemente di Medio Oriente, Mediterraneo e Africa subsahariana. Lei è andato alla conquista dell'Africa, ma è stata anche un'idea che è anche una conquista per l'Africa. Portare internet in Africa è semplice a dirsi e difficile a farsi. Chi è che l'ha aiutata e che cosa è successo per mettere in piedi questa impresa? Dove siete? In quali paesi adesso? Ci siamo costruiti una posizione molto forte nei paesi dell'Africa occidentale di lingua francofona e in tutti i paesi del Maghreb, in maniera particolare in Tunisia ed Algeria. Non ci ha aiutato nessuno. Ho investito tantissimo sui giovani studenti e giovani universitari italiani. questo è un ottimo punto che riguarda proprio i giovani che purtroppo hanno delle difficoltà anche a cercare, a trovare lavoro. Soltanto 12 nuovi laureati sono stati assunti tra dicembre dell'anno scorso e gennaio di quest'anno. Oggi abbiamo circa 60 persone, di cui 30 in Italia e 30 distribuiti tra Mediterranea e subsahariana. Abbiamo 10 ingegneri in Tunisia, altri 20 ingegneri tra Burkina Faso, Benin, Togo e Niger. Trovare mercato dove non c'è. Questo è un principio delle nuove idee della nuova economia frugale e orizzontale. Quindi lei ha trovato un mercato che in realtà, secondo i dati, è un mercato, diciamo, che ha forti potenzialità. Sulla nostra rete viaggiano le comunicazioni telefoniche di più di 200 operatori telefonici mondiali e più di 1 miliardo di abbonati alla rete telefonica. Noi praticamente noi mettiamo a disposizione dei più grandi operatori di telecomunicazione mondiale le nostre infrastrutture. Ecco, i vostri volumi di fatturato, per renderci conto in generale di quanto possa essere sviluppato, quanto si è sviluppato in questi anni il business e questo settore che è altamente importante per un continente come l'Africa. Io ho cominciato questa azienda e l'ho fondata nel 2009. Mi ricordo ancora la data della prima fattura, il 15 giugno 2009, 1500 euro. Oggi noi chiudiamo il 2015 con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro e prevediamo nei prossimi 3 anni di raddoppiare questo risultato. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.